In un certo periodo della mia vita mi assillava una verità attestata anche nel libro dell'Ecclesiaste, nel quale è scritto: dove ci è molta sapienza, ci è molto affanno, e chi aumenta la conoscenza aumenta il dolore. Ecclesiaste 1.18. Poiché sono sempre stato una persona assetata di conoscere e molto schiva al dolore, mi chiedevo per quali ragioni valide applicassi tanto tempo allo studio e all'apprendimento, dato che questo aumenta il dolore e la preoccupazione. Che questo sia vero è indiscutibile, lo dimostra il fatto che un genitore ha molto più affanni e dolori di un bambino, il quale non è ancora entrato nell'ingranaggio della vita. Ed ecco che ancora una volta ho voluto prendere in esame cosa dicesse la parola di Dio in merito all'insegnamento e all'apprendimento, e sorprendentemente vi ho trovato degli spunti interessanti. A parte il fatto che già nell'Antico Patto l'Eterno aveva ordinato di imparare a memoria le leggi da Lui emanate, Giosuè 1.8, notiamo che Gesù durante i 3 anni della sua breve missione ammaestrava e insegnava le folle, MT 28.18-20. Insegnava nelle sinagoghe, MT 4.23. Leggiamo nel libro degli Atti, dove sono testimoniati gli avvenimenti dei primi anni della nascita del cristianesimo, che Pietro ammaestrava il popolo, Atti 4.12, che gli altri apostoli insegnavano, Atti 5.2021, che Paolo e Barnaba appena potevano insegnavano, Atti 11.2526. E scorrendo altrove nella scrittura, notiamo che una caratteristica fondamentale del conduttore di una chiesa doveva essere quella di insegnare, 1 Timoteo 3.1. Se i primi cristiani avevano l'attitudine di insegnare, era perché i credenti dovevano conoscere il nuovo patto che Dio aveva stabilito con l'uomo. Ora, l'insegnamento presuppone che la gente venga a conoscenza di ciò che ignora, anche se questo può comportare un costo. Se uno non sa che bisogna pregare Dio solo tramite Gesù Cristo, è evidente che può rivolgersi a qualsiasi divinità e senza trovare ostacoli da altri religiosi. Ma quando un credente viene a conoscenza che qualsiasi preghiera rivolta a persone diverse da Gesù è una cosa spregevole per Dio, troverà probabilmente opposizione da parte di qualche fanatico religioso e così realizzerà che dove ci è conoscenza ci è opposizione e dolori. E a questo punto dovrà fare una scelta: o seguirà la verità costi quello che costi, oppure abbraccerà un sincretismo così odioso agli occhi di Dio. Dunque, Gesù, gli apostoli e i conduttori erano dediti all'insegnamento perché una delle più grandi necessità della Chiesa è quella di conoscere la volontà di Dio. Non a caso il verbo insegnare si trova quasi 100 volte nel Nuovo Testamento, il termine insegnante quasi 60 volte e la parola insegnamento più di 20 volte. Nella lista delle 5 figure dotate di doni spirituali indispensabili per una chiesa con un buon fondamento, compaiono anche i dottori, cioè coloro che hanno il compito di insegnare. Noi abbiamo urgentemente bisogno di apprendere. Io sono profondamente convinto che molti errori e peccati che si commettono sono frutto più dell'ignoranza che di una cattiva coscienza. Per cui ciò che manca alla Chiesa sono convinzioni, non nozioni. Le nozioni si ricevono ogni giorno e non necessariamente condizionano il nostro modo di comportarci. Le convinzioni invece hanno il potere di cambiare il nostro modo di pensare e di vivere. Esse nascono dopo aver meditato, riflettuto e studiato. Per questo è possibile dire che una chiesa dove non chi è un giusto, sistematico e sano apprendimento è obbligata a non crescere. I suoi membri rimangono sempre dei bambini che hanno il modo di pensare e di agire come tali, cioè in modo immaturo e non spirituale. E, come disse l'autore della lettera agli Ebrei, è molto difficile spiegare certe verità a chi non ha avuto una proporzionata crescita rispetto agli anni di conversione, perché così si diventa lenti a capire. Ebrei 5.1.1. Eppure vi sono alcuni credenti che hanno un atteggiamento di resistenza nei confronti della fatica dell'insegnamento, come se questo impegno a volte spossante fosse poco spirituale, mentre Dio dà il continuo ordine di crescere nella conoscenza. Per questo l'apostolo Pietro scrive ai suoi lettori di aggiungere alla fede la conoscenza, 2 Pietro 1.5. mentre Paolo prega per i credenti di Filippi affinché il loro amore cresca sempre più in conoscenza, Filippesi 1.9-10. E il libro dei Proverbi riconosce che lo zelo senza conoscenza non è una cosa buona, Proverbi 19.2. C. È davvero da rammaricarsi che al giorno di oggi vi siano così poche persone impegnate al grande compito dell'insegnamento, ma, del resto, tutto rispecchia il presente secolo malvagio, nel quale, per ottenere ciò che si vuole, si cerca sempre la strada più breve e meno faticosa. E dato che insegnare implica innanzitutto una vita di rinuncia e di sacrifici, è normale che si preferisca essere dalla parte di chi riceve e non dalla parte di chi insegna. Come disse l'Apostolo Paolo, ciascuno stia attento a come costruisce, perché nessuno può porre altro fondamento oltre quello già posto, cioè Cristo Gesù, 1 Corinzi 3.1011. Sembra che costruire, cioè edificare mediante un insegnamento, sia un compito esente da grandi difficoltà, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari per farlo, ma a volte, inspiegabilmente, si creano delle distanze fra chi esercita tale compito e chi dovrebbe beneficiarne. Si rimane sgomentati, non si parla più, fino al momento in cui si preferisce interrompere il rapporto. Un rapporto che, nella memoria degli interessati, era pur iniziato sotto i più buoni auspici e pareva destinato a crescere. L'Apostolo Paolo, Pietro e Apollo, tutti ministri del Vangelo, avevano iniziato il loro ministero nella città di Corinto, con lo scopo di far crescere nelle fede le persone a loro affidate. Tutti hanno fatto del loro meglio, hanno cercato il bene di tutti, si sono proposti di indirizzare a Cristo ogni anima, ma a un certo punto la comunità si trova divisa e in conflitto. Le persone non accettano più coloro che li istruivano, si scoprono diverse, difendono la loro diversità con la stessa tenacia con la quale dovrebbero difendere la loro comune origine. Eppure tutti hanno cominciato credendo nel Signore, tutti sono stati battezzati nel Signore per appartenere a Cristo, ma a un certo punto si trovano separati, sembra che abbiano un cristianesimo diverso, con un fondamento altrettanto diverso. E a questo punto che l'Apostolo Paolo pone un avvertimento, ciascuno stia attento a come costruisce. Avere uno stesso fondamento è buono e utile, ma in seguito è indispensabile un insegnamento che sia coerente con quel fondamento, perché è possibile, anzi profetizzato, che non tutto ciò che si insegna sia in armonia con lo spirito e l'insegnamento di Cristo. Noi tutti siamo inclinati a pensare che se le basi sono buone, l'albero cresca bene. Se invece l'albero non produce buoni frutti, siamo altresì portati a pensare che le radici siano marce. Ma non sempre è così. A volte le basi sono buone, anzi buonissime, eppure la crescita è cattiva. E questo spesso è dovuto ad un nutrimento carente o ad un avvelenamento da ideologie umane, senza tener presente che poi giocano a sfavore di una buona crescita l'arrivismo, l'orgoglio, la presunzione, o gravi complessi come quello di inferiorità o di superiorità, verità che non si possono nascondere. Tutti abbiamo bisogno di un giusto e completo apprendimento perché noi siamo ciò che pensiamo, a meno che ovviamente non ci sia dell'ipocrisia, cioè il comportarsi diversamente da come si pensa. Ma anche in questo aspetto non tutto è dovuto ad una insufficienza morale, perché spesse volte ciò che ci fa camminare in modo distorto è la mancanza di convinzione da parte dello Spirito Santo. Sembra cosa da poco, ma se crediamo di poter camminare nella verità solo se siamo convinti da Dio, significa che senza questa convinzione non possiamo mettere in pratica la verità. Perciò, come si è detto, non possiamo fare o non fare certe cose solo perché le abbiamo sentite dire. Ma occorre quella convinzione da parte di Dio che ci rende in grado di agire per il bene o di rifiutare il male. È facile leggere l'ordine di Dio di pregare per i propri nemici e far loro del bene, ma fino a che punto? È lecito pregare per uno che non voglio nemmeno vedere e soprattutto pregare perché Dio lo benedica? Quando i miei sentimenti contrastano violentemente con le mie parole, come posso ritenere ciò giusto? È facile leggere che devo perdonare, ma come faccio se nel mio cuore nutro giorno e notte un senso di rivalsa, Devo aspettare che passi, oppure devo perdonare anche con un cuore pesantemente aggravato. È evidente che per tutti quei interrogativi di cui è costellato il cammino cristiano, io ho bisogno di certezze, quelle certezze che sono in grado di dare un indirizzo alla mia vita. Perciò ho bisogno di apprendere dalla parola di Dio, ho bisogno di ascoltare chi predica la parola di Dio, ho bisogno di avere una buona comunione fraterna, perché Dio ha stabilito di parlare e di ammaestrarmi soprattutto mediante questi mezzi. Noi abbiamo bisogno di insegnamento e di apprendimento, non ci è l'uno senza l'altro. La sequenza non ha importanza, perché a volte si ascolta e si apprende, mentre altre volte, quando si è appreso, è doveroso insegnare. Questa responsabilità non è solo di alcune persone, ma di tutti i credenti in Cristo, dato che siamo chiamati a essere sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. 1 Pietro 3.1.5. Per essere pronti, occorre aver frequentato la scuola dell'apprendimento e quella dell'insegnamento. Una scuola dura e impegnativa, non facile, ma ne vale la pena. Perciò ora non mi pongo più il problema di ricercare delle ragioni valide perché applicassi tanto tempo allo studio e a insegnare. Piuttosto, ringrazio Dio del dono di avermi fatto partecipe dei suoi pensieri e di quello di condividerli con gli altri. Questo mi basta. Gennaio 2010, Ellero.